artista si riposa ma non smette, cecchini sulle tue vedette che per ucciderti aspettano un giro di lancette come marionette in manette. Qui la vita ci ha cambiato 40 volte 7, ma io ti voglio bene come quella foglia al vento. Siamo in conflitto ma siamo senza tempo. Guarda la notte come ci ha educato, le compagnie negli anni, l'amore che hanno dato. Ricordo la prima volta quando ti ho incontrato, avevi un sogno dentro che non è mai passato. Ma adesso ripensare a quella strada tutta barricata per un nostro concerto mi fa stare male dentro al petto. E quanto era facile vivere così, pensando che non fossimo cresciuti mai, che non avessimo infranto quei salvadanai e che la vita avrebbe avuto un tornaconto. Un giorno io sto piangendo mentre tramonto. Solo una domanda sai, io ti voglio bene ormai. Dorme tutta la città dentro un freddo senza età. Solo una domanda sai, io ti voglio bene ormai. Dorme tutta la città dentro un freddo senza età. Se me non ti rispecchi, sono vecchio dentro ma non vivo di interessi. L'Italia cade a pezzi e come insetti ci vogliamo bene se legati dai difetti. Col buio non dormo, mi alzo col terrore, col pensiero di essere quel nome. E un'etichetta non ti ascolta per errore, tutto d'un pezzo come un quadro d'autore. Ricordo quando sono stato male per la droga, mio padre era un'altra prova di chi muore per un ideale non per moda. Nulla cambierà, ma c'è chi dorme ancora, anche se il mercato usa il jet in espansione. Ci muoviamo tutti pieni di passione, con un cortometraggio, con una canzone, come in una piazza d'una manifestazione. Basta, è la vita che ci inganna, siamo un terreno troppo fertile senza acqua. Non siamo come un rettile che muta la sua pelle, resteremo sempre fratelli e sorelle. Solo una domanda sai, io ti voglio bene ormai. Dorme tutta la città dentro un freddo senza età. Solo una domanda sai, io ti voglio bene ormai. Dorme tutta la città dentro un freddo senza età. Quella volta che piangevi sopra il gabinetto cercando un compromesso. La vita ci delude senza chiedere permesso, e dopo sposta il baricentro un cambiamento. Le jam, il freestyle su quel prato, le bottiglie che ci hanno riscaldato. Ed essere un amico non vuol dire combinare di vedersi tutti i giorni. Io ho già dato, ricordo la taverna dove abbiamo registrato le prime cassette, non ho dimenticato. Tutte le persone a loro modo ci hanno amato, ma a volte quell'affetto l'abbiamo buttato. E se ci pensi nulla è cambiato, ma siamo soli come dentro un carro armato. E se ci pensi nulla è cambiato, ma siamo soli come dentro un carro armato. E se ci pensi nulla è cambiato, ma siamo soli come dentro un carro armato. E se ci pensi nulla è cambiato, ma siamo soli come dentro un carro armato.